Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e ben tornati, ben ritrovati a Salva Danaio. Un sostegno in più a disposizione del cittadino per rispondere alle tante esigenze nelle quali ci imbattiamo in qualità di consumatori ogni giorno, situazioni che magari ci creano a volte anche una situazione di disagio economico. Che cos'è la garanzia legale post vendita e ancora quali sono i termini per farla valere, quali sono i difetti di un bene da noi acquistato che permettono di attivarla? Ma non solo, telemarketing, servizi turistici, credito al consumo, servizi finanziari. È per educare i cittadini alla tutela dei loro diritti su queste cinque tematiche che il Ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di finanziare delle campagne di comunicazione e non solo, delle quali si sono fatte promotrici le associazioni dei consumatori. Uno di questi progetti verrà presentato domani a Roma, si chiama Guarda che ti riguarda ed è un progetto realizzato da cinque associazioni dei consumatori: l'Unione Nazionale Consumatori, Assoutenti, Confconsumatori, Codacons e Movimento Difesa del Cittadino, che è l'associazione capofila. Sempre su queste basi però si muove anche il progetto che verrà lanciato ufficialmente fra qualche giorno, fra qualche settimana, Check Up, promosso invece da un altro gruppo di organizzazioni capeggiate in questo caso da Altro Consumo, insieme ad ACU, Codici e la Casa del Consumatore. E allora, come si articoleranno questi progetti? Come arriveranno fra di noi consumatori e noi soprattutto come li potremo sfruttare? Questa mattina ci spiegheranno tutti i dettagli, i diretti interessati. Intanto ringrazio e saluto per essere con noi questa mattina, lo potremo sfruttare solo per la primissima parte della trasmissione, l'avvocato Massimiliano Dona, segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori e oltre a questo è anche rappresentante italiano nel gruppo consultivo Consumatori presso la Commissione Europea. Avvocato, buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno a tutti voi. Saluto e ringrazio per essere con noi Luisa Crisi Giovanni, che invece è direttore di Altro Consumo. Direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti. E tra un po' ci collegheremo anche con Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Allora, ovviamente io voglio anche la collaborazione stamattina per la miglior riuscita possibile della nostra trasmissione, perché intanto voglio sentire quali sono le vostre impressioni su queste attività delle associazioni dei consumatori. Noi le invitiamo spessissimo, ci aiutano molto ad animare le nostre trasmissioni, ci danno soprattutto un supporto molto concreto con tutti i professionisti che lavorano nel loro ambito, ma vorrei sentire anche qual è la vostra considerazione. Avete per esempio mai denunciato una pratica commerciale scorretta perché un'azienda alla quale vi siete rivolti per acquistare un bene o un servizio non vi ha poi servito al meglio e quindi non siete stati soddisfatti? E soprattutto siete dei consumatori che si avvalgono anche della consulenza e delle campagne informative come quelle delle quali parleremo questa mattina, quindi siete consumatori consapevoli, attivi? Raccontatecelo all'800240024 oppure scrivetecelo al 349-238-6666, o se volete scriverci un'esperienza un po' più articolata potete utilizzare il nostro indirizzo di posta, che è salvadanaio@radio24.it. Rapidamente la borsa, stamattina buone notizie dai mercati finanziari europei che sono tutti in rialzo, recuperano larga parte del territorio perso ieri. Abbiamo in evidenza Francoforte più un punto, Parigi più 0,8, Londra più 0,86, Milano più 0,62%. Ieri le borse avevano sofferto e per il nuovo allarme nucleare pesantissimo che è arrivato dal Giappone, ma anche perché è balzato oltre le attese il dato sui prezzi americani ai massimi dal 2009. Oggi Milano premia Pirelli più 3 punti, stanno crescendo i prezzi dei pneumatici, non è che siano proprio buone notizie per i consumatori, ma per le aziende sì, e Pirelli infatti guadagna 3 punti. Dia Sorin, un report positivo di Intermonte, permette al titolo di guadagnare il 2,63%, Saipem più 2, STM beneficia invece dei buoni conti del la concorrente olandese ASML, il titolo a Milano guadagna l'1,82%, Prysmian più 1,70%, Atlantia più 1,64%. Dall'altra parte della classifica invece troviamo vendite diffuse su Fondiaria, che perde l'1,20% dopo la corsa degli ultimi giorni per la Popolare di Milano. Pure brutta giornata, si riunisce oggi il Consiglio di Amministrazione che dovrebbe analizzare i risultati della recente ispezione di Banca d'Italia, per il titolo calo dello 0,9%, peraltro qua c'è un'animata discussione anche sulla eventualità di fare un aumento di capitale per questo gruppo. Enel Green Power meno 0,9%, Autogrill meno 0,47%, sempre sui massimi da oltre un anno anche l'euro, che sul dollaro quota stamattina 1,45,03. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di stamattina. Oggi parliamo dei diritti dei consumatori. chi non è mai capitato di ricevere telefonate per ricerche di mercato o per pubblicizzare prodotti e servizi? Oppure che la vacanza programmata da tempo non si svolgesse come desiderato? In qualche caso per colpa del tour operator o dell'agenzia di viaggio che non eseguono correttamente la prestazione dovuta. Ma quanti sanno ad esempio che esiste un elenco dove iscriversi per impedire il telemarketing selvaggio? O che in caso di villeggiatura rovinata si ha diritto ad un risarcimento del danno subito documentando il disservizio e inoltrando un reclamo scritto? Sono numerosi i campi di azione attraverso i quali i consumatori possono tutelarsi e far valere i propri diritti. Tra i temi più caldi riguardanti la tutela del consumatore c'è quello delle garanzie post vendita. Troppo spesso, infatti, a causa della spesso dilagante disinformazione che regna nel settore, al cittadino vengono negati dei diritti che gli spetterebbero per legge. Molti commercianti continuano, ad esempio, a sostenere che la garanzia non si estende agli accessori, altri che se si porta l'automobile in assistenza, il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera non rientrano nella garanzia, altri ancora che se si comprano prodotti come caldaie o condizionatori non si ha diritto ad alcuna garanzia e c'è perfino chi afferma che non deve alcuna assistenza in caso di istruzioni poco chiare nel montaggio di un prodotto. Tutto falso, naturalmente. Ecco perché è bene informarsi a fondo prima di affrontare spese, sottoscrivere contratti o servizi vari. Certo, non sempre basta essere consapevoli e conoscere il raggio entro il quale si è tutelati. Quando anche il consumatore si è informato su un proprio diritto, infatti permangono ampi spazi in cui la tutela prevista dalle norme non si concretizza. 800 24 0024, numero verde per i vostri interventi. Io devo dire che stanno già cominciando a fioccare numerosissime prenotazioni al nostro centralino, così come già vedo alcune riflessioni interessanti al 349 238 6666 e spero naturalmente che ci scriviate anche all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Avvocato Dona, Massimiliano Dona, il segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori, prima di presentare Guarda che ti riguarda, che lancerete formalmente, ufficialmente domani a Roma, le chiedo subito di aiutarmi a chiarire le idee ad un ascoltatore che ci scrive. Ma ci spiegate dove prendono tutti i soldi queste associazioni dei consumatori? Anzi, vi chiama la pletora delle associazioni. Perché prendo questa provocazione dell'ascoltatore? Perché mi piacerebbe far capire a chi ci ascolta in che modo siete in grado di organizzare queste campagne informative, perché anche l'origine di questa iniziativa è molto importante. Il Ministero dello Sviluppo Economico in questo modo redistribuisce tutte quelle risorse che l'antitrust in sostanza raccoglie ogni anno comminando le multe per pratiche commerciali scorrette alle aziende. Avvocato Donna, lo spieghiamo agli ascoltatori? Sì, è proprio così ed è anzi un chiarimento importantissimo da dare per evitare di far credere che le associazioni dei consumatori siano in qualche modo finanziate con fondi pubblici. In realtà questi quattrini che confluiscono in un fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico sono di provenienza dalle aziende scorrette. Queste vengono sanzionate durante l'anno dall'autorità antitrust, i proventi delle multe irrogati dall'autorità finiscono in un fondo ed è in qualche modo un bel segnale quello che questi quattrini indebitamente sottratti al mercato, frodando i consumatori, tornano al mercato per il mezzo di queste campagne di informazione che poi sono svolte dalle associazioni. Quindi chiariamo subito all'ascoltatore la sua giusta domanda. Questi fondi non sono fondi pubblici, in alcun modo gravano sul cittadino, sull'erario, ma gravano proprio sulle imprese scorrette. Ecco, tra l'altro ovviamente poi Guarda che ti riguarda, che adesso all'avvocato Dona ci spiegherà, così come Check Up di Altro Consumo, non sono solo ed esclusivamente campagne di informazione, sono anche questo, ma sono proprio anche come dire, iniziative di assistenza concreta ai consumatori, e poi lo spiegheremo. Peraltro, avvocato Dona, proprio stamattina c'è la notizia del boom di multe che l'Agicom, l'autorità delle comunicazioni, ha comminato alle aziende del settore, peraltro probabilmente le più multate in assoluto, perché ogni mese ne sappiamo di cifre enormi. In questo caso però anche quelle dell'Agicom non vengono poi attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico ad essere di nuovo redistribuite alla vostra attività? Purtroppo no, il settore dell'autorità delle comunicazioni sfugge ancora a questo meccanismo virtuoso. Viceversa, le sanzioni erogate dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, anch'esse sono oggetto di progetti che, come giustamente sottolineavi, non sono soltanto progetti di informazione, ma anche di assistenza. La nostra funzione in questi casi consiste proprio nel rendere concrete le norme che sono in un codice, ma che se non vengono assistite, ai noi, dall'intervento di un'associazione dei consumatori, molto spesso restano sulla carta e il consumatore si ritrova ad avere dei diritti, ma non a poterli tradurre in pratica. Avvocato Donna, come si articolerà Guarda che ti riguarda, che presentate domani? Dunque, siamo rimasti un po' in linea con il progetto dell'anno scorso, che ricorderete si chiamava Occhi Aperti. Abbiamo giocato ancora una volta sul tema dello sguardo che deve avere il consumatore, uno sguardo attento, e questa espressione Guarda che ti riguarda è un'espressione che noi, i nostri sportelli, ripetiamo spesso ai consumatori, perché per l'appunto le norme del codice del consumo vivono nella nostra quotidianità. Tra le varie iniziative abbiamo pubblicato delle guide, abbiamo messo a disposizione delle informazioni sui vari temi oggetto della tematica, che sono i più diffusi, i più vicini ai cittadini, dalle garanzie post vendita che venivano citate, alla pubblicità ingannevole, al credito al consumo, cioè il meccanismo ormai diffusissimo dei finanziamenti per acquistare beni o servizi. Ci sono degli sportelli di assistenza sul territorio, quindi i soggetti che si dovessero trovare a confrontarsi con un venditore poco serio possono ricevere assistenza da noi. Utilizzeremo anche strumenti di comunicazione molto moderni come la radio e naturalmente i social network. La ringrazio per la definizione di strumento molto moderno, Avvocato Donna, quindi utilizzerete anche noi, questo ci fa piacere. Naturalmente, 5 settori che sono stati individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico, appunto proprio per permettervi di focalizzare la vostra attenzione sui diritti dei consumatori, e lo ribadiamo: telemarketing è un settore sul quale in quest'anno c'è stata una novità molto importante, servizi turistici, credito al consumo e servizi finanziari, oltre appunto che le garanzie post vendita, tutti i temi, Avvocato Donna, poi la saluto perché anch'io devo andare in pausa, che sono stati scelti su vostra precisa sollecitazione. Sono queste le aree sulle quali c'è bisogno di maggiori campagne informative verso i consumatori? È proprio così, sono le aree di maggiore criticità, e neanche a farlo apposta, sono quelle che riguardano i mercati liberalizzati. Noi sappiamo bene che un mercato concorrenziale è un mercato favorevole al consumatore, ma a condizione che sia vigilato da vicino. Prendiamo il caso del telemarketing che accennavate, cioè quella di questa cattiva pratica delle telefonate all'ora di cena che un po' tutti gli italiani cominciano a ricevere. Grazie all'intervento dell'autorità per la protezione dei dati personali, oggi è sufficiente iscriversi in un elenco, si chiama Registro delle Opposizioni, il sito internet è proprio questo, registrodelleopposizioni.it, per evitare di essere disturbati. Ancora una volta, se i consumatori queste cose le sanno, possono fare anche autodifesa; se invece restano all'oscuro, purtroppo accetteranno supinamente la violazione dei loro diritti. Avvocato Donna, grazie per essere stato con noi, buona giornata, alla prossima puntata. Grazie a voi e un saluto a Luisa che dall'altra parte. Peraltro, proprio sul tema del telemarketing, siccome molte delle iniziative delle quali parleremo questa mattina, per la verità, sono partite, stanno andando già piuttosto bene, Altro Consumo ha già attivato un numero verde per dare tutte le informazioni agli associati e ai consumatori sul tema del telemarketing e come difendersi appunto quando questo veramente ci bersaglia. Luisa, lo racconteremo subito dopo la nostra prima pausa, ancora un minutino di pazienza, va bene? A tra pochissimo allora. Eccoci di nuovo insieme. Allora, l'informazione è la prima arma di difesa di noi tutti in qualità di consumatori, e naturalmente, se ben informati, possiamo diventare protagonisti attivi e consapevoli in un mercato sempre più concorrenziale. In ogni settore ci possiamo muovere sicuramente con maggiore intelligenza, scegliendo il meglio fra le innumerevoli proposte del mercato e facendo valere i nostri diritti. Allora, proprio per valorizzare al meglio tutto quello che ho detto fino ad ora, il Ministero dello Sviluppo Economico ogni anno finanzia campagne di informazione fra i consumatori, che vengono naturalmente poi declinate sul territorio attraverso l'attività delle associazioni dei consumatori. Domani un primo gruppo di organizzazioni presenta un grande progetto che si chiama Guarda che ti riguardo, lo abbiamo presentato poco fa con l'avvocato Massimiliano Donna dell'Unione Nazionale Consumatori, e poi partirà anche il progetto Check Up, promosso da un altro gruppo di associazioni capeggiate in questo caso da Altro Consumo. Questa mattina con noi il direttore di Altro Consumo, Luisa Crisigiovanni, che torno a salutare. Direttore, direttore, buongiorno. Poi tra l'altro conosco benissimo, mi viene anche da chiamarla Luisa, facciamo così che è meglio. A parte il fatto che possiamo adesso anche spiegare la vostra attività, come si svolgerà, però anche in questo caso, forse Dona prima lo ha fatto, magari specifichiamolo meglio. Non è che ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico, come dicevamo prima, redistribuisce le risorse che sono state accumulate, diciamolo così, con delle multe che l'antitrust infligge alle aziende che non si comportano tra i consumatori in maniera corretta, ma poi in realtà alla fine sono dei proseguimenti di campagne già attive da anni, Luisa, giusto? Ma in qualche casi, modo. In alcuni casi sì, come nel caso dell'informazione che si è cercata di dare sulle garanzie di conformità. Detto questo, tutti i temi che sono stati toccati, quindi essenzialmente quelli che sono le informazioni, ma gli obblighi contrattuali che attengono i contratti di vendita ai servizi turistici, di credito al consumo o lo stesso telemarketing, quindi la tutela della privacy, sono temi su cui le associazioni sono comunque attive. E anche rispetto al budget messo a disposizione diciamo come storno delle multe antitrust, questo è una parte chiaramente dei fondi antitrust, perché un'altra parte è devoluta a progetti che sono le stesse regioni, per esempio, a portare avanti per la tutela dei consumatori, in alcuni casi in collaborazione con le associazioni dei consumatori, in altri no, direttamente. E direi anche che alcune associazioni, come nella fattispecie Altro Consumo, di fatto basano la propria attività al 93% su risorse proprie, quindi la percentuale di aiuto che ci deriva da queste multe attraverso i fondi messi a disposizione dello sviluppo economico ci aiuta a raggiungere non solo, diciamo, i nostri soci, ma anche appunto la maggioranza della popolazione. Questo almeno auspichiamo sia attraverso il numero verde che attraverso tutte le altre iniziative che riguardano appunto check-up diritti. Allora, a proposito di numero verde, voi sul telemarketing fastidioso il numero verde lo avete già lanciato da tempo, giusto? Esatto, perché la legge è entrata in vigore appunto alla fine di gennaio, e quindi il progetto era appena partito, in realtà diciamo non è ancora stato lanciato, come giustamente ricordavi tu, lo sarà nelle prossime settimane, diciamo tra un mesetto circa, e in quell'occasione abbiamo ritenuto di privilegiare il bisogno di informazione appunto dei cittadini, e quindi prima ancora direi che iniziasse la stessa campagna istituzionale che riguarda il registro delle opposizioni, abbiamo messo a disposizione il nostro numero verde che ricordo è 800 194 491, per consentire alla gente di intanto conoscere le nuove regole per diciamo la gestione della propria privacy, e in seconda battuta poter appunto esercitare il proprio diritto di opposizione, appunto, cioè di non essere chiamati attraverso diciamo sollecitazioni fatte da aziende che pescano i numeri da contattare da vecchi elenchi telefonici. Ecco, allora perché le ho fatto subito spiegare anche del fatto che il vostro numero verde per documentare meglio i consumatori su come ci possiamo difendere dal telemarketing è già appunto un numero verde attivo da tempo? Perché molti ascoltatori che conoscono molto bene la normativa, le ultime novità che sono arrivate, cioè il fatto che ci si possa difendere da queste pratiche che non sono pratiche commerciali scorrette, sono solamente molto fastidiose a volte, perché abbiamo raccontato tante volte telefonate che arrivano a casa nel bel mezzo del pranzo o della cena, ovviamente sono poi molte volte, anzi sempre, ragazzi impiegati in questi call center che magari non è che prendano neanche un grande stipendio e che quindi devono magari anche attraverso una vendita importante riescono ad incrementare il loro stipendio. Allora da tutto questo ci si può difendere se ci si iscrive a questo registro delle opposizioni, e siccome attraverso il progetto Check Up Altro Consumo con le altre organizzazioni farà proprio un check up su come vivono certi fenomeni consumatori, allora un primo check up, Luisa, lo possiamo già fare da salvadanaio, perché molti ascoltatori già denunciano che pur iscrivendosi al registro delle opposizioni si continua ancora a ricevere, in molti continuano ancora a ricevere le telefonate di telemarketing. E questo che cosa vuol dire? Che praticamente iscrivendosi al registro delle opposizioni la possibilità di non ricevere più telefonate vale solo per il futuro, dal momento dell'iscrizione al registro? Se io ho già dato il consenso, per esempio, a ricevere telefonate in un momento precedente, questo non mi mette a riparo? Diciamo che in realtà esiste chiaramente la possibilità di essere contattati da aziende appunto a cui abbiamo rilasciato il consenso a trattare il nostro numero. Però è anche vero che sul sito che appunto è stato richiamato prima, quindi registroopposizioni.it, è visibile l'elenco degli operatori che sono sostanzialmente coloro che gestiscono i nostri dati, c'è la possibilità comunque multicanale di accesso per entrare in contatto con questo registro che è gestito dalla Fondazione Bordoni, che è comunque diciamo stata incaricata di svolgere questo lavoro per il Ministero dello Sviluppo Economico, e quindi sia via telefono che via mail, in realtà che via fax, via raccomandata, ci sono diverse modalità per poter intanto chiarire di non voler essere disturbati, e d'altro canto anche nel caso in cui ci siano degli operatori a cui ho rilasciato il mio consenso, ecco, ridefinire magari l'utenza, per cui può darsi che io abbia dato il mio consenso in un momento in cui io avevo in mente o avevo un certo recapito telefonico, io voglio ridefinire, rimodulare, riprofilare i miei dati, ecco, c'è certamente la possibilità di farlo con un modulo che si può scaricare dal sito e poi rinviare attraverso diverse modalità. Però ecco, ricordo che Altro Consumo, insieme alle altre associazioni appunto partner del progetto Codici Acqua e Casa del Consumatore, sono proprio a disposizione nei prossimi 12 mesi di tutti i cittadini per assistere in sostanza a questa ed altre richieste. Allora vado subito ad Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, capofila invece dell'iniziativa Guarda che ti riguarda, in questo rocambolesco collegamento che stiamo addirittura facendo dall'Egitto. Longo, buongiorno presidente, come va? Sì, buongiorno. No, tra l'altro, ecco, esatto, diciamolo che non è in vacanza, perché comunque sempre per la sua attività consumeristica che è lì. Sì, no, è un incontro tra l'autorità delle comunicazioni italiana, che fa un po' da tutor alla neonata autorità delle comunicazioni egiziana. Ci hanno invitato a un incontro sia con i membri dell'autorità che ai presidenti delle associazioni dei consumatori egiziane, che però sono grosso modo una sorta di ufficio, diciamo, statale, ecco, di tutela dei consumatori. Ecco, sicuramente le società di telecomunicazione, adesso non me ne vogliano se mi sentono anche gli amici degli uffici stampa di queste aziende, sono quelle che, come dire, ci bersagliano un po' di più dal punto di vista del pressing pubblicitario, promozionale e commerciale. Presidente Longo, quindi magari ecco anche su questo forse sarebbe bene, con la campagna Guarda che ti riguarda, come dire, spiegare bene ai consumatori quello che possono fare anche proprio per difendersi da pratiche commerciali insistente, se non a volte assolutamente poco trasparenti. Voi su che cosa focalizzerete nei prossimi mesi la vostra attenzione? Abbiamo già individuato i 5 settori principali che saranno oggetto delle campagne informative nei confronti dei consumatori, perché siccome c'è anche il tema del servizio finanziario, del credito al consumo, io pensavo che questo fosse l'ambito forse sul quale fosse necessario un po' di più comunicare bene attraverso i consumatori, appunto come funzionano le sottoscrizioni di prodotti e quant'altro. Invece vedo che appunto sono 5 le grandi aree, ma per esempio appunto sui servizi finanziari e il credito al consumo che cosa farete? Noi dunque nei prossimi mesi, anche noi impegnati con Unione Nazionale Consumatori, Codacons, Assutenti e Confconsumatori, oltre al Movimento Difesa del Cittadino, ci impegneremo sulle 5 tematiche che diciamo erano obbligatoriamente in qualche modo imposte dal bando del Ministero, e ci focalizzeremo poi, come lei diceva prima, su alcune importanti novità che riguardano soprattutto il credito al consumo. Ricordiamo i casi a Iazzone, per fare un nome noto a tutti, degli ultimi mesi, e quindi sulle nuove regole per chi accende un prestito per il consumo, che sono regole che tutelano maggiormente il consumatore contro le prevaricazioni dell'azienda. Ma posso aggiungere qualcosa anche sulle telefonate telemarketing, certo. Certo. Perché su questo c'è un grosso equivoco sul quale bisogna fare chiarezza con gli ascoltatori. Lui giustamente diceva: ma se io mi iscrivo oggi al registro delle opposizioni ho in qualche modo il diritto di revocare le mie precedenti autorizzazioni? Ebbene, non è così, perché il registro delle opposizioni vale soltanto per chi è iscritto nella guida telefonica, nell'elenco telefonico. Ma se io ho dato un mio consenso, magari senza saperlo, come nel caso, cito un caso clamoroso, c'è un'iniziativa internet che si chiama firmiamo.it, allora io firmo lì una petizione contro il nucleare, ebbene c'è una clausola assolutamente nascosta in un menu complicatissimo attendina che mi chiede se con questa sottoscrizione io consento anche a ricevere le famose telefonate. Ebbene, noi ci eravamo opposti a questo registro delle posizioni proprio perché non azzerava tutti i consensi dati precedentemente, ma così è, e quindi diciamo in realtà non servirà molto registrarsi in questo registro delle opposizioni, perché si continueranno a ricevere le telefonate per consensi dati più o meno consapevolmente via internet, in banca, alle assicurazioni e quant'altro. Bene, allora sicuramente Presidente Longo questo anno servirà anche proprio a ulteriormente individuare proprio gli ambiti più problematici, quindi probabilmente queste denunce potranno essere anche attraverso queste nuove campagne ad essere portate avanti. La ringrazio, Avvocato Longo, Presidente Longo. Io devo andare adesso di nuovo in pausa perché abbiamo i suggerimenti perché in viaggio, poi chiudo appunto la trasmissione con Luisa Crisigiovanni e ovviamente cercherei anche di ascoltare qualche ascoltatore, perché altrimenti l'ho invitati ad intervenire e non riesco ancora neanche a sentirli, a tra pochissimo. E allora, Luisa Crisigiovanni, sentiamo un paio di ascoltatori, poi ovviamente spieghiamo anche bene come declinerete nei prossimi mesi Check Up, il vostro progetto. Andiamo a Claudio da Vicenza, che poverino aspetta dall'inizio della trasmissione, voleva intervenire subito, invece l'abbiamo fatto lì un po' friggere. Claudio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, eccomi, nessun problema. Allora, volevo raccontare questo. Tempo fa ho fatto un biglietto online per una compagnia aerea low cost, che poi all'ultimo ha cambiato l'orario e ho chiesto rimborso, che non riuscivo ad avere, sia telefonando al call center, ovviamente a pagamento, sia via mail. Allora, dopo un po' di mail, ho fatto un'ultima mail mettendo semplicemente in copia l'indirizzo dell'Associazione dei Consumatori e specificavo che oltre a essere l'ennesima richiesta ci leggeva in copia l'Associazione dei Consumatori. Deterrente dei quali si sono subito intimoriti? In due giorni hanno risposto, l'Associazione dei Consumatori mi ha risposto più tardi addirittura della compagnia aerea che mi ha rimborsato il biglietto nel giro. Insomma, tanto è bastato fare il nome che loro. Ecco, ma magari. Subito, ma secondo lei ha funzionato quello? Cioè il fatto che lei abbia detto: guardate, che io intanto sto informando anche altre persone che potrebbero far valere ancora più in maniera più forte di me i miei diritti? Oppure. Non lo so, però diciamo che non era la prima mail, ma dopo quella io nel giro di due giorni ho avuto rimborso. E non risposta, proprio rimborso. Claudio, quindi, grazie. No, tra l'altro, Luisa Crisigiovanni, servizi turistici pure saranno un altro bel settore di battaglia sui quali appunto documentare al meglio nell'ambito dei diritti che hanno tutti i consumatori nei prossimi mesi. È stato proprio un corso di formazione per formare gli operatori appunto degli sportelli che saranno attivi da parte della Casa dei Consumatori la settimana scorsa, la TUIL, quindi per sposare anche idealmente il fatto che diciamo si trattasse del tema del turismo, e che si è chiuso tra l'altro con una tavola rotonda a cui è partecipato anche l'onorevole Comi. Ma questo proprio perché per poter essere utili bisogna essere consapevoli delle regole, questa è un po' la sfida che si cerca di cogliere come associazione dei consumatori, quindi spesso il diavolo si nasconde nei dettagli, come è stato richiamato prima, l'importante è essere molto più coscienti di quanto in realtà si sia nell'operare le nostre scelte, perché anche brevissimamente tornando alla questione del telemarketing, io credo che in uno scenario diciamo in evoluzione anche di mercato più aperto, non solo italiano ma appunto europeo e internazionale, bisogna essere consapevoli del fatto che le offerte commerciali ci possono arrivare non soltanto attraverso la televisione ma appunto attraverso diversi mezzi, quindi si tratta di rendere proprio anche più coscienti le persone del fatto che quando firmano qualcosa devono leggere piuttosto che esercitare il proprio diritto, per esempio, a ottenere un bene intatto nel caso in cui diciamo il venditore si rifiuti di far riparare il prodotto che si è comprato diciamo a pieno piezzo, piuttosto che fatto bene a precisare anche come dire proprio l'aspetto della massima consapevolezza quando si fanno e si eseguono delle azioni. Io lo dico per prima perché io sono una che veramente va a guardare tutti i siti, mi piace anche comprare un sacco di cosine online, ma qualche volta magari infilo intanto il mio indirizzo di posta elettronica ovunque. Adesso sono un po' più attenta e non metto più il numero di telefono, che spesso anche molti siti ovviamente invitano a compilare. E però insomma un paio di volte sono rimasta fregata, non vi posso dire quello che mi arriva ovviamente. Poi tra l'altro prima anche Luisa Crisigiovanni, molte aziende, questo è capitato anche a me, l'ho notato proprio di recente, ti facevano questa attività di telemarketing anche sul cellulare, ovviamente non permettendo la comparsa del numero dal quale si chiamava, dal quale le aziende chiamavano. Adesso invece ovviamente, perché allora lì era più facile non rispondere, numero sconosciuto, io non rispondo a nessuno, adesso invece invece mettono in evidenza anche il numero, per cui magari un'immagine che sia qualcuno che ti cerca per lavoro, chissà per quale motivo, si risponde e zac, ecco che devi fare la lunga conversazione con l'operatore dall'altra parte. Comunque, diciamo, la cosa importante da dire è che oltre a questo sforzo profuso dalle associazioni dei consumatori prima per formarsi, per formare i propri quadri perché siano utili per i cittadini e poi diciamo per incalzare i cittadini a esercitare questi diritti che sono stati codificati ma devono essere anche poi esercitati, per cui si innesta un circuito virtuoso, ci sono, come è stato ricordato, delle autorità di vigilanza. Quindi nel caso in cui le regole fissate dal famoso decreto che ha istituito il registro posizione, che insomma il 177/2010, siano violate, c'è l'autorità della privacy. Nel caso delle pratiche commerciali scorrette c'è l'autorità antitrust presso cui farsi valere. Nel caso del credito al consumo insomma ci sono autorità di vigilanza che vanno da Banca d'Italia e altre. Quindi in realtà noi quello che facciamo è essere al fianco dei consumatori perché davvero possano essere meno rassegnati, soprattutto lo dico con riferimento a quelli che sono dei dati che a noi sono stati comunicati da diverse rivelazioni statistiche, che ci dicono appunto c'è questa specie di disaffezione generale verso quello che è un po' l'universo, diciamo, del sistema, delle regole in cui noi ci troviamo a vivere, operare le nostre scelte. Però spesso ecco ci troviamo semplicemente a dire che tutto non funziona e non ci concentriamo a sufficienza nel far funzionare quello che noi stessi possiamo Perché qualche volta c'è anche la percezione diffusa, e questo lo vedo anche da molti ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666, che in automatico, iscrivendosi all'associazione dei consumatori, si abbia diritto in automatico, lo ripeto, per esempio alla consulenza legale se ci imbattiamo in qualche problema magari un po' più serio. Invece, come dire, l'attività dell'associazione dei consumatori e a volte fondamentalmente di tipo informativo, voi per esempio lo fate proprio con la vostra rivista, con Altro Consumo, quante copie pubblicate Luisa? Allora i soci ricevono, sono 330.000 e quindi Altro Consumo arriva a 330.000 famiglie. Dopodiché ecco è chiaro che le consulenze che noi facciamo sono la parte a valle del problema, vuol dire che magari le persone hanno avuto un problema oppure sono indicazioni al miglior acquisto, al miglior servizio, perché per esempio parlando di mercati liberalizzati e mercato elettrico, dal 1 luglio scorso chiaramente c'è la possibilità di scegliere tra più operatori, soprattutto in virtù del fatto che è entrata in vigore la tariffa bioraria, e quindi magari di vagliare se ci sono meno operatori più convenienti. Quindi prima ancora dell'autorità dell'energia e del gas, noi per esempio sul sito di Altro Consumo abbiamo costruito un calcolatore per comparare le tariffe e anche le offerte commerciali, anche dal punto di vista diciamo della correttezza delle condizioni contrattuali degli operatori, e quindi attraverso questi servizi noi speriamo di rendere appunto di fatto migliore anche l'incontro della domanda e dell'offerta. Alessandro da Roma, rapidissimo, grazie, buongiorno. Sempre il famoso registro delle opposizioni oggi che ha attirato la vostra attenzione. Alessandro. Eccomi, sono qui. Rapidissimo, la ringrazio. Sì, rapidissimo. Volevo dire che io, pur non comparendo sull'elenco telefonico, naturalmente ricevo e telefonate che vogliono venderci di tutto, dal vino eccetera, e ho provato a iscrivermi al registro delle opposizioni e mi è stata rifiutata l'iscrizione perché non risulto sull'elenco telefonico. Quindi è un problema non risolvibile. Forse dovevano fare più con il registro delle opposizioni un registro dei consensi, dove si iscriveva chi voleva ricevere. Alessandro, la ringrazio, perché guardi, c'è un ascoltatore di Pescara, io lo saluto Marco ma non riesco a farle intervenire, che probabilmente voleva darci un'indicazione di questo tipo, perché il registro delle opposizioni non è stato studiato. Al contrario, Luisa Crisi Giovanni, magari porterete anche questa istanza al tavolo giusto attraverso la vostra campagna Check Up. Ci rimangono 40 secondi di tempo, riusciamo magari a dire insomma come si organizzerà Altro Consumo con le altre associazioni dei consumatori e quali saranno i cavalli di battaglia di Check Up Diritti? Ma il cavallo di battaglia sarà proprio cercare di rendere accessibile questa informazione attraverso diversi canali. Sono stati ricordati i social network, li useremo anche noi, useremo anche le piazze, canali non convenzionali e le partnership con realtà come le università e come tanti comuni che ospiteranno nostre iniziative, e informazione oltre che in italiano anche in inglese, perché riteniamo che i consumatori oggi siano consumatori in qualche modo del mondo, quindi bisogna imparare a ragionare anche in un'ottica internazionale. Grazie a Luisa Crisi Giovanni, direttore di Altro Consumo. Io per ridere vi leggo l'ultimo messaggio che è arrivato poco fa, 349-238-6666, di un ascoltatore che dice: mio suocero attua rispetto al telemarketing un sistema brusco ma ad effetto, posa la cornetta sul tavolo e lascia che l'operatore parli da solo. Poveri ragazzi che lavorano a questi call center, veramente bistrattati in ogni modo. In realtà è solamente l'attività di promozione commerciale che deve essere organizzata meglio. Grazie a tutti, noi torniamo domani. A proposito di attività dell'associazione dei consumatori, domani parliamo di Parmalat, rischio prescrizione che potrebbe cancellare ogni possibile risarcimento perché ancora deve ottenerlo, quindi ritorniamo sul colosso di Collecchio. Buona giornata.